cambogiana, Bon Chumben, Filipina Tagalog, Marigayang Pagabuhay ni Cristo, Esperan, Felician Pascon en Cristo Resurrectinta. Il Papa lo usa, il mondo laico lo getta. Ogni domenica il Partito Radicale e l'Associazione Radicale Esperanto al Vaticano per raccogliere iscrizioni e firme sull'appello per l'adozione internazionale e l'insegnamento nelle scuole dell'Esperanto. Raccogli firme e organizza tavoli nella tua città. Comunica la tua disponibilità telefonando allo 06 68 97 91. Il bambino del Bangladesh, il bambino più ricco della società britannica o americana, insieme abbiano una seconda lingua, che l'anglofono abbia una seconda lingua è urgente. Bonan tagon Europa, buon pomeriggio Europa, ci tie estas la Esperanta Bulteno della Glora Radicala Radio, questo è il notiziario esperantista della gloriosa Radio Radicale, in studio Davide Tutino e Rocco Berardo. Iniziamo subito ascoltando l'intervento del segretario dell'Era Giorgio Pagano al 37° congresso del Partito Radicale, tenutosi all'Hotel Ergife il 7 e 8 aprile scorsi. Предоставляю слово Джорджу Пагану. Allora, innanzitutto buonasera. Un salutino non fa mai male. Allora, l'intervento lo leggo perché, come sapete, per riuscire un po' a dare meno difficoltà ai nostri interpreti è molto meglio che loro abbiano una traccia scritta. Alcune parti peraltro le spiegherò un po' a braccio, ma comunque con un minimo di lentezza per consentire e facilitare il lavoro di interpretariato ai nostri amici in cabina. Allora, la consapevolezza e la ricchezza linguistica del pianeta sta per essere distrutta ancora più rapidamente di quanto lo siano gli animali in via di estinzione, ed è proprio questo che ci ha spinto a fare della garanzia del diritto alla lingua, della battaglia esperantista, una delle principali battaglie del partito. Ancora una volta non ci sbagliavamo affatto, e poco più di un mese fa abbiamo dovuto registrare, non da parte di studiosi europei, ma da parte di studiosi americani, sì, avete sentito bene, non europei, ma americani, riuniti a convegno per l'ennesimo, ne fanno molti a dir la verità, convegno dell'Associazione Americana per l'Avanzamento della Scienza ad Atlanta. Beh, è stato chiaramente denunciato che sotto la pressione delle lingue egemoni, inglese in testa, saranno solo circa 300 le lingue parlate effettivamente nel mondo rispetto alle attuali 6.000, entro il prossimo secolo. Non solo nell'ambiente naturale, quindi, ma anche in quello culturale, noi stiamo lasciando ai nostri figli solo desertificazione. A questa conferenza i ricercatori hanno mostrato come la perdita delle lingue abbia gravissime implicazioni scientifiche e che, purtroppo, già la metà delle lingue di questo pianeta non vengono più imparate dai figli dei parlanti nativi. Tali diverse lingue non possono dunque considerarsi in pericolo. In realtà hanno già passato questa fase e stanno per essere totalmente annientate. E il problema è che una volta perduta questa varietà linguistica ci vorranno diverse migliaia di anni perché essa si ricrei. Si denunciava, ad esempio, ad Atlanta che solo circa una dozzina di lingue si sono evolute dal latino negli scorsi 2000 anni. Ma torniamo comunque al Partito Radicale. Al Consiglio Generale di Sofia la frase che avevamo giustapposto in quella mozione recitava esattamente questo: agire nei parlamenti e nelle organizzazioni internazionali a sostegno della diffusione e per la progressiva adozione, anche formale, della lingua internazionale quale concreto strumento di garanzia del diritto alla lingua, di salvaguardia dell'ecosistema linguistico-culturale, planetario, di crescita, al di là delle nazionalità, di un'identità comune mondiale in appartenenza all'unica famiglia umana. Il progetto che allora avevamo presentato a quel Consiglio Generale su questo tema, su questa campagna, ha dovuto però già alla fine del 93 essere drasticamente ridimensionato. Il progetto che avevamo portato in quel momento ammontava a circa 750 milioni di lire, verrebbe da dire in questi giorni lira pesante, visto le vicissitudini ultime della lira, e che invece sono state ridimensionate addirittura del 15, di ben 15 volte, ossia intorno ai 50 milioni. Questo è quello che, con quello che si è potuto lavorare in questo ultimo anno. Malgrado questa estrema riduzione, abbiamo comunque cercato di investire sia uno scenario internazionale, UNESCO principalmente, sia un scenario europeo, Parlamento europeo e anche dei rapporti avuti con il commissario allora Ruberti, e ovviamente, certo non escludendo, quello italiano. E sono appunto questi tre scenari che evidentemente saranno oggetto particolare di questa relazione. Riguardo all'UNESCO, va ricordato che già nel 1954, come anche nell'85, questa organizzazione aveva approvato due risoluzioni a favore dell'Esperanto. Si trattava quindi di accelerare questo cammino, ed è quello che abbiamo cercato di fare, sensibilizzando innanzitutto la Commissione nazionale e successivamente organizzando una manifestazione a Parigi con un incontro con i principali responsabili di questa organizzazione. Nella fattispecie Colin Powell, che era il vice direttore e il direttore responsabile del settore educazione dell'UNESCO stesso. L'Italia, in quell'occasione, nella conferenza generale che si tenne nei primi giorni di novembre, presentò una mozione a favore della lingua internazionale. Grazie alla nostra manifestazione, il direttore generale prese posizione esplicita in calce alla mozione presentata, alla proposta di risoluzione presentata, dandoci anche un minimo di direttive e accogliendo quella che era la nostra propositività su uno scenario che riguardava un particolare programma dell'UNESCO che va sotto il nome di Lingua Pax. Questo ci ha consentito successivamente di elaborare un progetto che avevamo pensato collegasse almeno insegnanti, bambini di quattro paesi del mondo e che invece, anche solo con un finanziamento di $10,000, perché poi questa è stata la somma stanziata dall'UNESCO su questo progetto, oggi vede la presenza di circa 100 insegnanti di ben 20 paesi del mondo collegati tra di loro insieme alle loro scolaresche. Passiamo ora allo scenario europeo. Da questo punto di vista, l'attività, il nucleo fondamentale dell'attività svolta si è incentrata sui due nuovi programmi che andavano a sostituire quelli precedenti, ossia l'Erasmus e il programma Lingua, che vanno sotto il nome del Socrates, che è quello che è stato poi definitivamente approvato con delle modifiche successive e continue solo nelle settimane scorse, e un altro programma che era il Leonardo sulla formazione. Purtroppo l'assenza di un parlamentare europeo che, come membro della Commissione Cultura innanzitutto, facesse seria e costante opera di informazione e convincimento, è stata, questa assenza, decisiva per la sconfitta. Sono stati circa una trentina gli emendamenti proposti, ma tutti quanti, purtroppo, sono andati a vuoto. Eppure è proprio l'Unione Europea, che oggi conta ben 11 lingue ufficiali e 35 lingue minoritarie, che ha maggior bisogno di comunicazione transnazionale, dove c'è bisogno di accelerare una campagna federalista sulla lingua. Una lingua federale che possa essere appresa durante la scuola dell'obbligo non solo è diritto, ma anche garanzia di pari opportunità per ciascun euro cittadino. Ma è altresì una vera e propria necessità strutturale ed economica delle istituzioni. E qui basti ricordare nel 94, al momento in cui ancora non c'era stata l'entrata di tre nuove lingue, che ad esempio il massimo di costi tra traduzione e interpretariato era quello della Corte di Giustizia europea, che arrivava addirittura al 58% del proprio budget. Oggi, come sapete, le combinazioni linguistiche con l'entrata di tre nuove lingue passa da 72 a 110 combinazioni linguistiche che gli interpreti devono assicurare, e quindi potete immaginare, anche in termini di Parlamento europeo, che allora spendeva circa il 37% del proprio budget in questo settore, a che punto di situazione drammatica si arriva semplicemente per scambiarsi delle idee, dei pareri, ma anche, ahimè, per decidere, e molto spesso, alle volte, decisioni abbastanza farraginose. Nella fase di lancio, ad esempio, dell'Unione Europea si sono enfatizzati molto ampiamente i costi della non Europa economica. L'ovvio messaggio che tali calcoli più o meno avventurosi implicavano era chiaro: l'Europa conviene, ma colpisce sempre di più oggi la miopia con la quale non è stata affatto dedicata attenzione all'Europa che comunica. Che non sia stato considerato, cioè, un mercato europeo non in senso astratto, nel senso di allocazione di risorse e basta, come ad esempio ricordo era incentrato il rapporto Cecchini, ma un luogo dove si vende e si compra, ma anche, e io ritengo soprattutto, un luogo in cui si comunica. Perché un mercato possa dirsi compiutamente tale, occorre che i soggetti che vi si affacciano siano posti in condizione di comunicare, di riconoscersi, di scambiarsi i messaggi culturali. È questo l'insegnamento profondo che ci offre l'epopea storica della formazione del grande mercato nordamericano. Il fatto che l'Unione Europea, a differenza degli Stati Uniti d'America, sia solo un'unione economica ancora ampiamente imperfetta e non anche un'unione linguistica, comporta costi e inefficienze che potrebbero rivelarsi fatali per il progresso e la conservazione dell'Unione stessa. Il primo e più rilevante di questi costi è quello costituito dall'inefficiente allocazione della risorsa lavoro che deriva dalla sua scarsa mobilità geografica. Non c'è bisogno di evocare la proverbiale mobilità dei cittadini americani tra occupazione attraverso i vari stati degli Stati Uniti d'America per rendersi conto che in realtà la situazione per quanto riguarda il lavoratore europeo è assolutamente stagnante. La mobilità transfrontaliera dei lavoratori dipendenti o autonomi coinvolge solo quote marginali della forza lavoro e per lo più in aree specifiche, proprio quelle, le zone frontaliere. È solo la disperazione sociale delle aree più povere del continente europeo che ha spinto le popolazioni a consistenti spostamenti geografici sotto forma di flussi migratori. Ma a parte questi pur rilevanti casi, la forza lavoro europea può essere considerata sostanzialmente immobile. Ed è chiaro che una quota parte del pesantissimo tasso di disoccupazione che attualmente interessa l'Unione Europea sia da attribuire agli attriti e alle inerzie che ostacolano la ridistribuzione territoriale dell'offerta di lavoro in base alle caratteristiche e alle esigenze della domanda. Se è vero poi che uno dei grandi assi di sviluppo su cui attualmente si punta per rilanciare la competitività dell'industria europea è quello orientato alla costruzione delle reti di informazione che ci dovrebbero portare alla cosiddetta società dell'informazione, appare chiaro il rilievo che è destinato ad assumere la questione linguistica. La circolazione delle informazioni che sarà richiesta dalla progressiva attuazione della cosiddetta, appunto, società dell'informazione sarà difficilmente compatibile con l'assenza di una lingua federale che attualmente caratterizza lo spazio europeo e che è destinata ad aggravarsi con il suo progressivo ampliamento. È altresì difficile pensare che tutto questo non si traduca in una considerevole perdita di efficacia delle opportunità aperte dal grande mercato europeo, sia all'industria dell'informazione, che a quella della comunicazione, che all'industria in genere, che alle piccole e medie imprese. Non si produrrebbero affatto, a lungo andare, gli effetti attesi dall'unificazione spontanea dei mercati per tutto il substrato dell'economia rappresentato dalle piccole iniziative imprenditoriali. Avremmo un'unificazione guidata dalla burocrazia di Bruxelles, vale a dire guidata da una cultura costruttivistica, aliberale, se non antiliberale, mediocre, spesso, o se volete, solo a volte, ma comunque a volte, fino al ridicolo. Andremo probabilmente incontro alla degenerazione del mercato come istituzione storica, alla rivincita cioè dei teorici della convergenza delle economie di mercato verso le economie pianificate, al passaggio dalla libera iniziativa al dirigismo burocratico. In assenza di intercomunicazioni dirette tra i piccoli operatori, famiglie, piccole imprese, artigiane o non, potremmo giungere a soffocare l'imprenditorialità mediante la riduzione progressiva della ricchezza delle iniziative di piccole dimensioni. È per questo che abbiamo positivamente avviato un rapporto con alcuni economisti stranieri e italiani per mettere a fuoco tutto questo e sempre meglio. Economisti che vanno sotto il nome di Reinhard Selten, premio Nobel per l'economia 1994, al professor Martens, al professor Berti, al professor Ridolfi. Questo appunto perché venissero calcolati i costi della non comunicazione e che, cifre alla mano, riuscissimo a dimostrare quanto prima la necessità di una lingua federale. Già ci sono dei piccoli saggi che questi economisti ci hanno dato, sono il terreno sul quale stiamo lavorando e credo sono anche il terreno sul quale probabilmente una grossa iniziativa di carattere economico che riguardi sia gli economisti europei sia gli imprenditori piccoli e medi innanzitutto possa vedere il Partito Radicale in azione. Passiamo ora allo scenario italiano. Lo scenario italiano ha visto un apporto abbastanza articolato, soprattutto perché unico Parlamento dei nostri, nei quali avevamo nostri iscritti, siamo riusciti a costituire un intergruppo parlamentare. Intergruppo coordinato dall'onorevole Elio Vito e che andava e va sotto il nome di Intergruppo Parlamentare Federalista sulla Lingua e per la Riforma della Politica Linguistica. Grazie a questa operazione si è potuti agire nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione. Il Ministero della Pubblica Istruzione ha attivato una commissione ministeriale ad hoc che ha prodotto un suo lavoro che si è concluso alla fine del 1993. Un lavoro estremamente positivo e che ora aspettiamo proprio in questi giorni. Abbiamo fatto un'ultima manifestazione non più di mese fa di fronte al Ministero della Pubblica Istruzione, venga fatto conoscere al mondo della scuola italiana. Ma è grazie anche a questo lavoro della Commissione che ad esempio sono potute partire le prime sperimentazioni, i primi progetti di sperimentazioni autorizzati dal Ministero della Pubblica Istruzione, come ad esempio a Torino. È grazie anche al lavoro tenace, pervicace molto spesso, fatto di continue telefonate, di continui incontri, che a Torino, primo Ateneo italiano, è nata la prima cattedra, è stato avviato il primo insegnamento di interlinguistica ed esperantologia. È questa un ulteriore fatto importante, ma forse quello più importante, perché non è di carattere istituzionale o meramente istituzionale, è quello che è accaduto con l'Associazione Nazionale Insegnanti di Lingua Straniera. Il 2 febbraio si è costituita la sezione Esperanto, chiamiamola così, in realtà il nome esatto recita per l'insegnamento dell'orientamento linguistico e della lingua internazionale, ecco, si è costituita questa sezione dell'Associazione Nazionale Insegnanti di Lingua Straniera. È la più prestigiosa, come anche la più antica, associazione di insegnanti di lingua straniera italiana, e credo sia un fatto importante perché evidentemente comincia a percepirsi questo rischio che incombe sulle lingue, su molte lingue, da parte di lingue egemoni verso la scomparsa. Ossia siamo riusciti a far passare il messaggio che evidentemente se questo diritto alla lingua noi non lo garantiamo di fatto, concretamente, cercando di far comunicare tutto il mondo nel modo più semplice e più facile possibile, è evidente che nessuno mai spenderà un'ora in più del proprio tempo, visto le difficoltà che ciò comporta, che non apprendere una e una sola lingua, e ovviamente la lingua egemone. Questo credo sia un fatto importante, si deve probabilmente anche al recepimento del presidente dell'ANIS stesso delle nostre convinzioni, delle nostre argomentazioni, ossia il professor Balboni, che è docente presso l'Università Straniera per Stranieri di Siena di pedagogia. Probabilmente sarà dovuto a mille altri fattori, però è accaduto. E oggi, forse nel mondo, quelli che erano i nemici storici dichiarati ormai da oltre un secolo, da quando è nata la prima comunità internazionale esperantista, che evidentemente non coincide con la nascita dell'Esperanto, che è dell'87, e quindi dal 1905, cioè da quel congresso di Boulogne-sur-Mer degli esperantisti, ecco, è la prima volta che questo accade. È una cosa che accade nel basso e credo che questa sia la rilevanza maggiore. Il 28 di aprile ci sarà alla Biblioteca della Camera dei Deputati, a Palazzo dei Refettori, in via del Seminario 76, qui a Roma, il primo sforzo, la prima occasione concreta che questa sezione dell'ANIS porrà in atto, e quindi il primo convegno dove questi insegnanti si chiederanno come cominciare a mettere giù iniziative per la formazione degli insegnanti di lingua straniera, di lingua internazionale, come anche dell'orientamento linguistico. Ad essa parteciperà a questo convegno, parteciperà anche il sottosegretario alla pubblica istruzione Luciano Corradini, come anche Balboni, come anche l'Associazione dei Presidi e dei Direttori Didattici. Credo che sarà un'occasione interessante, oltre che importante, per cercare di costruire sul serio una dimensione dell'insegnamento anche transnazionale, di comunicazione transnazionale. Ora quello che è auspicabile è che analoghe iniziative vengano fuori, analoghe come ad esempio quella di una commissione ad hoc, analoghe come ad esempio un collegamento con altre associazioni di insegnanti di lingue straniere e via dicendo, in altri paesi, grazie all'attivazione di altri amici, siano essi compagni radicali da tanto tempo, siano amici che ci raggiungono anche solo quest'anno. Concludo con la prospettazione dello scenario futuro e con quella che è in realtà la guida, la matrice, come dire, di questo scenario, che è l'appello che tutti gli italiani iscritti al Partito Radicale, ma direi molto di più perché mi pare che la tiratura sia stata fatta di circa 50.000 copie, hanno ricevuto in Italia. Quelli fuori dall'Italia purtroppo non l'hanno ricevuto per l'ovvia situazione economica nella quale siamo, ahimè, ingabbiati, ed è un appello sulla lingua internazionale che riguarda comunque questi tre scenari che oggi vi ho un po' prospettato in termini di azione svolta. E allora la cosa più semplice è probabilmente quella proprio di leggervelo, ringraziando anche i nostri amici interpreti, perché molti di voi, specie stranieri, lo sentiranno per la prima volta e che quindi magari potranno già capire fin d'ora che è possibile, attraverso il Partito Radicale, arrivare nelle proprie sedi e mettere anche in aggiunta, tra le varie cose da fare, nei propri parlamenti o nei propri paesi, anche quest'altra piccolissima cosa, che è di raccogliere alcune firme. L'appello è un appello indirizzato al Comitato, al Presidente del Comitato dei Diritti Umani, al Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, e qui una piccola chiosa, l'attuale segretario è uno svedese, un certo signor Tirsch, che è anche un vecchio esperantista. Stranamente, come vedete, si riesce anche a trovare non solo nei premi Nobel per l'economia, ma anche all'interno del Consiglio d'Europa, delle persone che nella loro vita hanno anche appreso questa lingua internazionale e che quindi magari è possibile ci dia una maggiore apertura. È indirizzato poi al Presidente del Parlamento europeo, ai parlamentari europei di ciascun Stato, alla Commissione e al Consiglio europeo e in Italia al Capo dello Stato, ai Presidenti e componenti della Commissione Affari Esteri e Comunitari, della Commissione Cultura di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio, al Ministro della Pubblica Istruzione, al Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, al Ministro degli Affari Esteri, alla Presidente della Commissione Nazionale per l'UNESCO, ai rettori delle università italiane e alla Università Europea di Firenze, alle direzioni generali del Ministero della Pubblica Istruzione, agli IRSAE, ai provveditorati agli studi, alle scuole e alle università cattoliche. E l'appello recita così. L'articolo 27 del Patto relativo ai diritti civili e politici del 1976 e la recente dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti, tra l'altro, alle minoranze linguistiche e approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 21 febbraio 1992, sanciscono il diritto per gli appartenenti alle minoranze linguistiche di utilizzare la propria lingua. La Corte Suprema del Canada, il 15 dicembre del 1988, nella causa Ford e Devin, il Comitato dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, nella causa Quebec del 31 marzo 1993, e il Consiglio Costituzionale francese, nella sua recente decisione linguistica del 29 luglio 1994, hanno dichiarato che la libertà di espressione comprende generalmente ed implicitamente il diritto di utilizzare liberamente qualsiasi lingua, e dunque il diritto alla lingua. Per garantire effettivamente tale diritto nell'ambito delle nazioni e nel campo internazionale è necessario promuovere e diffondere una lingua internazionale ausiliaria, quale l'esperanto, che non è una lingua competitiva nei confronti delle altre lingue, come lo erano prima il latino e il francese, oggi l'inglese e domani chissà quale altra lingua. L'esperanto è una lingua ausiliaria la cui promozione e diffusione garantirebbero effettivamente il diritto alla lingua quale diritto fondamentale inscritto nella natura umana. Pertanto, noi sottoscritti chiediamo che, quale strumento concreto di garanzia del diritto alla propria lingua da parte di appartenenti a minoranze, sancito dall'articolo 27 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, il Comitato dei diritti dell'uomo chieda e controlli l'utilizzazione della lingua internazionale esperanto negli ordinamenti nazionali, in occasione della verifica dei rapporti nazionali presentati dagli Stati membri aderenti al Patto. Chiediamo che l'UNESCO studi subito una convenzione per la diffusione e la progressiva adozione dell'esperanto come lingua internazionale ausiliaria. Chiediamo alle istituzioni europee che essi elaborino uno studio approfondito sui costi per l'utente consumatore, per le imprese e per lo sviluppo europeo a causa della non comunicazione linguistica tra i cittadini dell'Unione europea, come anche sulla prospettiva dell'esperanto come lingua federale e le sue eventuali fasi applicative. Che compiono gli studi e i passi necessari affinché l'esperanto divenga lingua di riferimento giuridico dell'Unione Europea, affinché promuovano l'uso dell'esperanto come mezzo per apprendere meglio e più velocemente le lingue straniere e, anzitutto al loro interno, l'uso della lingua internazionale come lingua ponte, qualora ci sia impossibilità di interpretariato o traduzione diretta, finanzino adeguatamente una sperimentazione europea dell'insegnamento e apprendimento dell'esperanto, controllandone e divulgandone i risultati. In Italia, in rapporto al disegno di legge 1093 per la riforma della scuola secondaria, ove è contemplato il potenziamento dello sviluppo della formazione linguistica degli studenti, si intenda fin d'ora e si contempli nei successivi interventi attuativi della riforma che gli studenti abbiano la possibilità di scegliere di comunicare anche attraverso una lingua non etnica e, segnatamente, l'esperanto. Relativamente alla proposta di legge sulla seconda lingua straniera nella scuola media, la 464 del 5 maggio 1901 e successive ripetizioni, venga sostituita da due lingue ufficiali della comunità europea o straniere, di cui una anche non etnica ed internazionale. Il Capo dello Stato, il Parlamento, il Governo, il Ministro della Pubblica Istruzione, il Ministro degli Affari Esteri si facciano promotori di iniziative in favore dell'esperanto nelle istituzioni europee, presso tutti i paesi con i quali l'Italia intrattiene relazioni diplomatiche, nelle organizzazioni internazionali. Esplicitino immediata richiesta all'UNESCO attraverso anche il fattivo lavoro e appoggio della Commissione nazionale perché esso metta allo studio subito una prima convenzione per l'uso e l'adozione dell'esperanto come lingua internazionale ausiliaria. Con l'Ungheria, dove già dagli anni 50 l'esperanto è insegnato nelle scuole di ogni ordine e grado, si avviino consultazioni e sperimentazioni per giungere a un patto bilaterale per l'intrattenimento delle relazioni diplomatiche nella lingua internazionale. Il Ministro della Pubblica Istruzione aggiunga l'esperanto alle quattro lingue insegnabili attualmente nelle scuole elementari. Le direzioni generali del Ministero della Pubblica Istruzione, gli IRSAE e i provveditori, in forza della relazione della Commissione Ministeriale sull'Esperanto del 1993, si facciano promotori di corsi di formazione e di aggiornamento degli insegnanti sulla lingua internazionale e sul metodo di Paderborn per l'insegnamento e apprendimento delle lingue straniere. Le università italiane e quella europea mettono a statuto delle specifiche facoltà gli insegnamenti di interlinguistica ed esperantologia e o di esperanto, diano vita a istituti e corsi interdisciplinari volti a studiare il problema della comunicazione internazionale dal punto di vista della scienza politica, della sociologia, della linguistica e della interlinguistica, della pedagogia e della cibernetica. Questo l'appello, chiedo innanzitutto agli stranieri che sono qui, ora che lo hanno sentito, di firmarlo al tavolo che vedete all'ingresso di questa sala e concludo segnalando un evento di particolare importanza che ha segnato l'attività del 1994 del Partito Radicale, perché esso va al di là, credo molto al di là, delle iniziative e dei successi e delle sconfitte conseguite. Si tratta del fatto che, corrispondendo ai voti e alla richiesta rivoltagli dal Partito Radicale, il Papa ha voluto porgere i tradizionali auguri pasquali Urbi et Orbi del 1994 anche in esperanto. Questo per noi tutti è stata una grande notizia, un grande evento, e visto che poi Sua Santità ha voluto far uso anche dell'esperanto nell'occasione ultima, Urbi et Orbi, quella del Natale, appare ancora più verosimile la speranza da noi nutrita che egli voglia ulteriormente incoraggiare questa causa e che quindi inciti, riesca a lavorare, ovviamente con noi accanto, con noi sostenitori, con noi che in queste settimane abbiamo fatto anche una campagna nelle scuole cattoliche presenti a Roma e in qualche altra città italiana, perché questo aiuto, questo suo segnale dato a Pasqua di fronte a 60 televisioni del mondo, si traduca in qualcosa di più e si traduca innanzitutto nelle università e nelle scuole cattoliche. Grazie. Bene, torniamo in studio, sono le 15:38 minuti, questa è Radio Radicale. Abbiamo ora in collegamento Guido Gentile da Treviso. Salve. Ciao Guido. Allora, un saluto agli ascoltatori. Un saluto anche a te. Ecco, tu ci parli del tavolo che avete fatto, dove sì, e quando? Sì, è stato fatto in un parco a Sant'Artemio qui a Treviso. Per la festa della primavera. La festa della primavera, sì, che è andata molto bene come festa e il tavolo è andato altrettanto bene. Ah, quante firme? 68. Ah, e... Sì, però ecco, oltre che le firme, proprio il rapporto con la gente è andato molto bene. Ah, molto bene. Sì, perché molti chiedevano e secondo me, molti che hanno detto ci penso, secondo me le prossime volte se si interviene ancora con tavoli firmano. Benissimo. Perché io già diversa gente che ormai cominciano a conoscermi. Sì. E gente che giustamente ci riflette un po' su, poi viene a firmare quando mi rivede. Certo, poi tra l'altro tu lì a Treviso e dintorni stai facendo un lavoraccio. È il settimo tavolo che faccio su questa campagna. Sì, no, ricordo quelli a Piazza Ferretto a Mestre, questo qui, sì? Insomma, sì. Non è da oggi sicuramente. Sì. E allora credo che, io direi che possiamo dare il tuo numero agli ascoltatori, no? Sì. Per, come riferimento per Treviso e dintorni. Certo. E prefisso 0422 sì. 400 sì. 255. Molto bene, ecco. Ti ringraziamo, speriamo di risentirti presto con altre buone, buonissime notizie. Sì. E a presto. Bene, Gislavenko. Ciao. Allora, e andiamo avanti con l'Agenzia Europe, la rassegna stampa. Sì, iniziamo subito con una notizia sull'istruzione dell'Unione Europea. L'insegnamento delle lingue e informazione dei giovani, anno dell'istruzione e della formazione, all'ordine del giorno dei consigli istruzione e giovani. Il consiglio istruzione e il consiglio giovani si riuniranno l'uno dopo l'altro venerdì 31 marzo sotto la presidenza del ministro francese François Bauer, istruzione Michel Alliot-Marie, giovani. I lavori saranno dedicati in particolare all'apprendimento e all'insegnamento delle lingue, al progetto riguardante l'anno europeo della istruzione e della formazione e all'informazione dei giovani. Si parlerà anche della messa in opera dei programmi Socrates e Giovani per l'Europa, adottati recentemente. Il Consiglio Istruzione avrà il seguente ordine del giorno: apprendimento e insegnamento delle lingue. La Presidenza sottoporrà al Consiglio un progetto di risoluzione teso a fornire le basi per una riflessione sul contributo dei sistemi di istruzione alla costruzione europea e alla comprensione tra i popoli dell'Unione. Resta da risolvere il riferimento che in questa risoluzione verrebbe fatto alla possibilità per ogni allievo di imparare due lingue in un periodo minimo di 2 anni nel corso della scuola dell'obbligo, iniziativa a cui la Presidenza attribuisce molta importanza. Secondo 1996, anno europeo dell'istruzione e della formazione, il Consiglio dovrebbe raggiungere un accordo sulla sostanza della sua posizione comune, pronunciandosi sui 39 emendamenti votati dal Parlamento in prima lettura. Resta da stabilire il bilancio di questo anno tematico, tenendo conto che tutte le delegazioni, tranne il Regno Unito, sono in grado di accettare il compromesso della Presidenza che verte su un importo di 8 milioni di euro. La decisione del Consiglio può essere presa a maggioranza qualificata. Si applica la procedura di codecisione con il Parlamento. Terzo, il programma Socrates. In materia di istruzione, la Commissione informerà i ministri delle misure che prospetta per attuare questo programma. E ancora sull'istruzione al Parlamento europeo. Sì all'anno europeo della formazione permanente. Il Parlamento europeo aveva espresso il suo accordo in prima lettura nell'ultima plenaria per la proclamazione del 1996 come anno dell'istruzione e della formazione per tutta la vita, che comporta una dotazione di 5 milioni di EQ nel bilancio dell'Unione Europea per organizzare manifestazioni e campagne di informazione. Seguendo il relatore signora Heinisch del Partito Popolare Tedesco, il Parlamento Europeo ha chiesto che sia posto l'accento sul ruolo della famiglia, la promozione di manifestazioni a livello locale e regionale, l'apprendimento delle lingue straniere, l'eguaglianza di opportunità tra uomini e donne, eccetera. Ancora una notizia del 31 marzo scorso, sempre dall'Unione Europea sull'istruzione. Il Consiglio ha approvato la risoluzione sull'insegnamento delle lingue e la posizione comune sull'anno dell'istruzione e della formazione. Sotto la presidenza di François Bayrou, il Consiglio Istruzione è giunto ai seguenti risultati. Primo, apprendimento e insegnamento delle lingue. Il Consiglio si è dichiarato d'accordo sulla risoluzione riguardante in particolare l'impiego di nuovi metodi e tecnologie nell'insegnamento delle lingue, i soggiorni linguistici, l'insegnamento già dalla scuola elementare. In linea generale, gli allievi dovrebbero avere la possibilità di imparare 2 lingue europee e straniere. Il Consiglio ha tenuto così conto di una obiezione del segretario di Stato britannico, Tim Boswell, che ha ritenuto che il fatto di imparare 2 lingue straniere potrebbe indurre gli allievi a confonderle. Su richiesta della delegazione greca, i ministri hanno discusso dell'apprendimento delle lingue classiche durante la colazione. Seconda notizia, nel 1996, anno europeo dell'istruzione e della formazione lungo tutta la vita. Il Consiglio si è dichiarato d'accordo sulla sua posizione comune, con una dotazione di 8 milioni di euro. Terzo, sul programma Socrates, il commissario Edith Cresson ha informato i ministri dell'attuazione di questo programma. L'aspetto Erasmus, scambi di studenti, permetterà di rivolgersi a 137.000 studenti e a 14.000 insegnanti. Ai sensi dell'aspetto innovativo Comenius, scuole elementari e medie, quest'anno saranno finanziate 500 azioni di partnership che interessano 2.000 scuole e 800 azioni di scambio di insegnanti. E concludiamo con una notizia sulla Commissione Europea, sulla Commissione Cultura. La Commissione ha proposto il programma Rafael, che sosterrà circa 300 progetti culturali negli Stati membri. Il commissario incaricato dell'audiovisivo e della cultura, Marcelino Oreja, ha presentato mercoledì scorso alla Commissione, che lo ha approvato, il terzo programma comunitario nel settore dell'azione culturale, ossia il programma Rafael. Il programma Rafael, elaborato su richiesta del Consiglio, è teso prevalentemente ad incoraggiare e sostenere l'azione degli Stati membri in favore del patrimonio culturale, nonché della conoscenza e della diffusione della cultura dei popoli europei. Più che un programma di finanziamento, si tratta di un programma di incitamento e di stimolo. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, questo programma permetterà di attribuire un sostegno finanziario a progetti culturali di dimensioni europee. Dovrebbe indurre un miglioramento effettivo, tanto dal punto di vista culturale che per quanto riguarda l'approccio socio-economico, in quanto favorisce le sinergie operative e la partnership. L'obiettivo è di sostenere con mezzi finanziari che dovrebbero raggiungere i 60 milioni di EQ un periodo di 5 anni circa 300 progetti in tutti i settori del patrimonio culturale, di carattere innovativo e di alta qualità professionale sulla base di una cooperazione europea effettiva. Il programma deve essere approvato dal Consiglio e dal Parlamento europeo. E così chiudiamo la breve rassegna stampa dell'Agenzia Europe e dovremmo avere in collegamento il segretario dell'ERA Giorgio Pagano. Giorgio? Eccoci. Ciao Giorgio. Buon pomeriggio. Oggi è la prima giornata, questo breve collegamento semplicemente per annunciare una cosa che qualcuno che ha potuto seguire per intero i lavori del Congresso del Partito Radicale già sa, ma per coloro che non lo hanno potuto fare e che sono gli esperantisti o quantomeno gli ascoltatori interessati a questa trasmissione sulla lingua internazionale, sulla comunicazione transnazionale in genere, non sanno. Vale a dire, un accordo che abbiamo concluso la scorsa settimana con Radio Varsavia, che trasmette via satellite come sottobanda rispetto alla TV, alla TV polacca, e la quale, trasmettendo anche in esperanto via satellite, per gli esperantisti addirittura giornalmente per due volte al giorno, manderà in onda anche tutti quelli che saranno le nostre notizie, i nostri comunicati stampa sul Partito Radicale, su quanto altro di relativo all'attività sulla lingua internazionale e non potremmo e vorremmo proporli. Mi sembra una cosa importante, è un'espansione di questa trasmissione, se vogliamo, per certi versi, anche perché ci sarebbe, su questo non siamo andati ancora a fondo, ma ci sarebbe addirittura la possibilità di un qualcosa che vada ad esempio in diretta contemporaneamente via satellite e la nostra trasmissione in Italia, nel senso che la trasmissione ad esempio pomeridiana di Radio Varsavia è alle 15.30 in questo momento, in effetti di là noi stiamo ricevendo Radio Varsavia. Di questo ricevitore si è dotata l'Esperanto Radical Associo, va benissimo, come tra breve ascolteranno un pezzo della trasmissione stessa, dove peraltro si invita a scrivere, e anche noi invitiamo gli ascoltatori di Radio Radicale a scrivere a Radio Varsavia. Poi Davide darà i necessari ragguagli per quanto riguarda l'indirizzo e anche il fax addirittura. Ecco, anche per fargli sapere che effettivamente ci sono molti in Italia che vengono raggiunti da questo messaggio che parte da Varsavia, Mi sembra una cosa abbastanza interessante perché è un'espansione, se vogliamo, indiretta, ma che potrebbe addirittura essere indiretta, perché tra l'altro gli orari con questa trasmissione sono pressoché, per quanto riguarda l'ultima mezz'ora, cioè dalla 15.30 a quasi le 16, contemporanei con Radio Varsavia. Beh, tra l'altro poi un servizio che prestiamo anche agli esperantisti, che quindi potrebbero farsi venire in mente anche di finanziarlo. Certo, questa è una tendenza che mi pare sia già emersa col nostro continuare a prospettare il corso di lingua internazionale nella trasmissione del lunedì. È una tendenza che va, a nostro parere, potenziata in senso linguistico, anche perché ormai mi pare che dei limiti da un punto di vista di attività anche politica a livello transnazionale, sia dell'associazione sia come radicale in genere rispetto alla lingua internazionale, sono dovuti proprio all'apprendimento o meno di questa lingua, e tra l'altro finalmente la gente può conoscere, come si suol dire, per deliberare, cioè per decidere. Vedrete che grazie alle nostre lezioni chi potrà e chi vorrà seguirle anche per poco, anche mentalmente, mano a mano con l'ascolto riuscirà a capire anche granché di quello che Radio Varsavia stessa trasmette in esperanto. È una cosa importante, è una piccola spesa che si è consentita l'Associazione Radicale Esperanto, però mi sembra un'espansione notevole di una dimensione radiofonica di Radio Radicale italiana e così via, che peraltro viene irradiata anche sull'intera Europa grazie a Eutelsat. È una cosa interessante, come peraltro ad esempio potrà essere interessante per Radio Varsavia avere anche una espansione da un punto di vista così di conoscenza, ad esempio sull'Albania. Radio Radicale si riceve molto bene anche in Albania, e quindi con gli esperantisti ad esempio albanesi, che evidentemente fanno parte di un'area purtroppo meno fortunata della nostra in termini economici, e che certo avrebbero delle grosse difficoltà a dotarsi di un'antenna parabolica con tanto di ricevitore, e evidentemente invece attraverso solo una radiolina potranno così anche loro ascoltare un po' i Radio Varsavia e avere maggior contatti anche con questa emittente. Ecco, mi sembra una cosa abbastanza utile, interessante, e soprattutto che mostra sempre di più agli ascoltatori che cosa succede oggi nel mondo, e quanto invece di quanto si è sentito dire in congresso in termini di assoluta ignoranza. Qualcuno ricorderà un intervento dove si parlava del fatto che l'esperanto non avesse cultura o non fosse una lingua dotata di letteratura. Beh, insomma, gelare il sangue, sì. Sì, insomma, sono veramente cose che fanno gelare il sangue, nel senso che evidentemente quello che hanno pagato gli esperantisti, cioè queste cose probabilmente potevano essere dette fino al 1904. Già dal 1905, nel momento in cui c'è il congresso internazionale di Boulogne-sur-Mer, già c'è la prima comunità internazionale di esperantisti provenienti da tutte le parti del mondo, è già lì che comincia a nascere la prima letteratura esperantista. In quel caso le prime emozioni, i primi, parlo ovviamente di un qualche cosa che riguarda una collettività, mentre invece peraltro, come gli esperantisti sanno, già Zamenhof aveva fatto un'opera di traduzione notevole nei primissimi anni, subito dopo il 1987. E anche di produzione. Sì, sì, di traduzione e di produzione in originale. Il primo poeta in esperantista. Di produzione e di traduzione in originale, entrambe le cose. Quindi sono... che peraltro da persone che si dicono interessate all'esperanto lasciano veramente perplessi, e sono, oserei dire, diffamatorie nei confronti della storia stessa della comunità, come forse anche della nostra associazione, visto che mi pare che sono diverse centinaia ormai le trasmissioni che abbiamo fatto sulla stessa Radio Radicale, e che quindi quasi questa trasmissione ha delle notizie, e se le ha avute sa che certo questa non è la situazione. Certo, ma sarebbe poi come dire che anche lo stesso Partito Radicale, in quanto transnazionale, non è portatore di una forma di cultura. La stessa idea di transnazionale è un'idea che è essa stessa portatrice di una forma di cultura. Quindi sarebbe come dire che noi non esistiamo, però sì, parliamo. Beh, qui magari entriamo già nell'ambito dell'interpretazione, e quindi in una ambito un po' più particolare e più complesso. Certo è inaccettabile quel tipo di definizione, soprattutto da persone che dicono essere interessate alla battaglia sulla lingua internazionale. Ma comunque vedremo che cosa si potrà fare nel proseguo dei giorni, anche rispetto a questa diffamazione nei confronti degli esperantisti e della cultura internazionale esperantista. Per quanto ci riguarda, credo sia importante far sentire agli ascoltatori subito Radio Varsavia, una breve sintesi evidentemente, man mano poi che comincerà una collaborazione sempre più concreta e assidua, saremo in grado di proporvi delle cose più estese, cioè. Più estese, senz'altro. E per il momento quindi un grosso saluto a tutti e un grosso ringraziamento agli ascoltatori in questo momento che sono collegati con Radio Radicale. Bene, ciao Giorgio. Arrivederci. Bene, allora passiamo all'ascolto di Radio Varsavia. È una registrazione di Radio Varsavia del 9 aprile in cui si dà lettura di alcune lettere di ascoltatori per in occasione del 36esimo anniversario delle trasmissioni esperantiste di Radio Varsavia. Vi ricordo brevemente l'indirizzo a cui scrivere per scrivere a Radio Varsavia: Radio Polonia, Esperanto Redazio, ovvero Redazione Esperanto, 00977 Varsavia, casella postale 46 Polonia. C'è anche un numero di fax che è lo 0048 22444119. Lo ripeteremo anche nelle prossime settimane. Vi ripeto brevemente soltanto l'indirizzo: Radio Polonia, Esperanto Redazio, Redazione Esperanto, 00977 Varsavia, casella postale 46 Polonia. Cara amico Teobald, scribu al ni, no, exemple, se existus tia clubo, ni diru che tia clubo povas creigi tre ballo, exemple, cion tia clubo au tiu clubo povus realigi, ciu cunordigi diversa in radiostatio in ciui usas Esperanton, doni helpoin, helpon, sugestoin, nu cion crome povus fari tia clubo? Mi invitas ne nur vin, cara Samidano Teobald, sed alia in auscultantoin, mi iomete discutu la afferon, char povas esti che tia afero concretigios iam. Certe, mi captas la occasion por core danki al vi pro tre precisa kai detala analizo de audeblezzo per diversei frequenzoi che ni jus analizas. Coran dankon, tio estis tre granda streccia kai ege valora por ni laboro. Multfoje ni uzis tia in via in contribuajo, in rapporto, in pri audeblezzo por liveri ilin al nia tecnica faco, kai shainas al mi che la posttagmeza e il sendo iam tutte au relative bone funccias laula vid punto de audeblezzo, sed ancau privespera io shandigis. Molto shandigis, cer facte venas iam pri multe confirmui che la audeblezzo per ses cent tridec fin en multe locoi faridas iam pli bona. Do, ni tre stivolas en ciui landoi postiu antau nelonga shangio, cai kia estas laudeblezzo de nia vespera disaudigo? Niam parolis cae mensis pritiva, aparte grava lau mi, cai tre interesa estas la facto che tiom bone nun audeblas niei elsendoi en Italujo. Fenomeno antaŭe preskaŭ konata. Ĉu vespere ankaŭ? No, tion mi ankoraŭ ne scias, eble posttagmeze certe. Certe. Mi rigardas kiom da korespondaĵoj, ĉar mi havas la statistikon. No, vidu se tamen estas ok el Italio, do sufiĉe multe. Yes, compare. Yes, min aparte surprizas tiu amaso da korespondaĵo el Francio. Do, ĉu tio estas rezulto de pli bona audeblezzo aŭ de mi ne scias kio, sed tamen ni diru ke la unuan lokon de nove okupis la aŭskultantaro en Germanio. Yes. Venis kvindek kvar raportiloj, pardonu, korespondaĵoj. La duan lokon de nove okupis Finlando, dudek kvar finnoj estas ege aktivaj en la korespondado kaj volonte aŭskultas. Francio estis la tria, dek naŭ, la kvara estis Ĉeĥio, dek tri, do tio estas bona resulto, sed ali flanque la najbara Slovakio venis nur unu correspondajo, nur unu. Nu, eble mi menciu ancora che el Nederlando estis, nau Svedio cae Italio, hoc Britio, sep, cae ancao Austrio, sep. Dio, estes bona resulto por Austrio. Anton Obern Killing. Obernofer. Yes, pardon, mi forgesis momente la nomen. De longe jam ne scrivis al nini, io mal tranquillas, ciu vi bone fartas, cara amico. Donu ian viv signon al ni. No, sed ciu niam suffice rapportis? No, uno correspondaggio el de extra Europa, el Japanio, mendanta saluton por concerto cun bondesiro, i versaine. Sed non monate iam venis contribuaggio de professor Rokuro Makabe, quiu intertempe estes en Japanuio, scrives che, yes, bedaurinde ne eblas ausculti niein alsendoin tie, tamen professor Rokuro Makabe multe prini racontas kai disvastigas la scion pri la servoj de Pola Radio. Kvankam li ne povas nin aŭskulti, koran dankon. Mi pensas ke tamen, ĉar ni parolis pri nia konkurso okaze de la sepdekjariĝo, ni citu almenaŭ unu aŭ fragmenton aŭ la tutan korespondaĵon, konkursaĵon de Giulio Cappa, itala Esperanto-poeto, jes, kiu malofte skribas al ni, sed li skribas ege interese kiel ĉiam. Ĉu vi me antaŭ ol vi citos, mi nur informu ke venis la raporto kiu konfirmas ke la aŭdebleco je la dekkvina tridek estas bona kaj kontentiga. Kie? Ĝuste ĉe sinjoro Giulio Cappa en Aosta. Kaj Giulio Cappa, la demando kiel vi pritaksas la informajn programerojn en la Esperanto-elsendoj de Pola Radio, skribas interalie: ne multae informoi pri Pollando atingas mian landon Italion. Ciam tio ocasas, temas cutime pri novajoi maltranquiligae, ciui jetas ne tute favoran lumon sur la lando. Se exemple listigi mencioin pri Pollando en italai gazetoi cae televidoi dum la lastai monatoi, mi memoras la polemicoin pri la Auschwitz ceremonioi, la timoin cae duboin pri la rolo de Pola presidanto au la riprocioin de Johano Paolo la Dua pro la troa consumismo en la Pola socio. Evidentas, scribas Giulio Cappa, che el ciui eblai temoi la internazia gazetaro electas ne la plei positivain, cetere tio estas prescau natura traito de libera gazetaro. Compreneble oni ne ciam conscias che la politica cae socia vivo in Pollando ne limigas sin al tio. Por la plei multo de miei samlandanoi, do Pollando existas nur foie de tempo al tempo, cae ciam en rilato al polemico, criso au generale malbonajo. Mi male, duas iom pli vastan panoramon, char mi auscultas la esperanta nel sendon de Pola Radio, mi ricevas pli completan informon pri la lando. Tial mi memoras che Pollando existas ne nur ocase de dangeroi, timoi au quereloi. Compreneble, daurigas Giulio Cappa, mi auscultas la elsendo in de Pola Radio precipe, char ili estas en Esperanto, cae consistigas tre valoran internazilingvan ciutagan informilon, solan tian en la mondo. Mi celas che malgrau mia simpatio al Pollando, mi ne auscultas ital lingvan elsendon de Pola Radio, cetere, se gi existus. Mi do en iras la bruan arbaron de mallong ondoi nur por audi la internazian lingvon Esperanto. Aliflanke, tute ne genas min che la unua parto de la programo rilatas novajoin pri Pollando, char mi auscultas tion en mia shatata internazia lingvo, cae samtempe ricevas informoin pri interesa fora lando. Ciam miai laborocupoi permessas, mi auscultas la elsendon en Esperanto, sed cefe postagmese ila decvina tridec. Cai li finas iene. Mi do ancao aciras pli detalan ideon pri la maniero ciel Pollando construas sian democration plur voce debatante novain cae malnovain problemoin, scribas Giulio Cappa. Permesu che mi citu non la correspondajon de nia malnova auscultanto Fritz Walter Popek, ciu appartenas alla auscultantaro de citiu lando, ciu Plei amas scribas al nia redaccio, che a mia libera tempo permessas mi auscultas vien esperanto el sendo in iam dum iaroi, ti ocasas flur foie en la semaino. Generale interesas min cio, cio rilatas la ciutagan vivon en via lando, cun attento mi auscultas la novajoin, cio in mi comparas cun le informoi en niei amas comunitiloi. En niei gazetoi, radio, cae televido mine estas tiel profunde informita, ciel per viei novaj sigoi cae commentarioi. La ciutagai gazet eltondajoi, cio in nia televido citas, nur de tempo al tempo mencias polain gazetoin, dume mi ricevas tre vastan superrigardon en viei esperanto elsendoi. Giuste, tiu, tra rigardo della cefurba gazetaro, donas al mi tre precisan bildon pri la politica vivo en via lando. Mi opinias che tio estas ege grava. Pollando che uia volas esti samraita partnero della Occidente Europa, ne prebesonas disconigon de siei economiei, sociei, culturei facoi, factoi cae agadoi sur multei campoi, cae tio povas ocasi nur per daurei liberei informadoi pri ciui aspectoi della ciutaga vivo. La esperanto informoin mi trovas ciam tre interessei. Ili ne estas tro longei, sed tamen suffice inform havai. La commentarioi bone completigas la cefain sigoin. Tion scrivas Fritz Walter Poppe, cae ni aldonu che ni ancora volonte attendas alia in contribuajoin al tiu demando, char iom post iom ni presentas ilin al niei novai gvidantoi de Pola Radio, ciui ege interesigas pre tio, cae, no, tia maniere ancau vi helpas nin, cae generale la position de Esperanto en radio. Per ci tiu constato ni tamen devas adiaui vin, non semaine che signoroi faras tion Barbara Pecciak. Cae Angi Pettin. Cae Esperanto redaccio de Pola Radio, gis la raudo. E siamo di nuovo in studio, questa era Radio Varsavia, che riceviamo via satellite e vi ritrasmettiamo nel notiziario esperantista. Vi ricordo le iscrizioni al Partito Radicale, all'Associazione Radicale Esperanto. Vi potete iscrivere con 345.000 lire al Partito Radicale e all'Associazione Radicale Esperanto, o con 100.000 lire associarvi all'Associazione Radicale Esperanto. Con conto corrente postale, il numero è 60397007, ripeto 60397007, scrivendo nella causale per iscrizione con nome, cognome e recapito, o con un vaglia telegrafico intestato ad Esperanto Radicale Associo, via di Torre Argentina 76 00186 Roma. O anche per telefono, se siete in possesso di una carta di credito, vi potete iscrivere in pochi minuti telefonando al 689791. E andiamo senz'altro a chiudere. In studio c'erano Davide Tutino e Rocco Berardo. Alla prossima settimana, Gis Lavenco, fino alla vittoria. Cambogiana, buon ciumben. Filippina Tagalog, Marigayang Pagabuka ni Cristo, Esperam, Felician Pascon en Cristo Resurrectinta. Il Papa lo usa, il mondo laico lo getta. Ogni domenica il Partito Radicale e l'Associazione Radicale Esperanto al Vaticano per accogliere iscrizioni e firme sull'appello per l'adozione internazionale e l'insegnamento nelle scuole dell'Esperanto. Raccogli firme e organizza tavoli nella tua città. Comunica la tua disponibilità telefonando allo 06 68 97 91. Che il bambino del Bangladesh, il bambino più ricco della società britannica o americana, insieme abbiano una seconda lingua, che l'anglofono abbia una seconda lingua, è urgente